adesso che fai? La pioggia ed il sole, adesso che fai? Quando senti un dolore, quando il cielo si abbassa sulla tua testa e senti lontani i giorni di festa. Adesso che fai quando passa l'amore? Adesso che fai quando non trovi parole? Quando la vita ti scorre davanti, sono solo momenti fatti restanti. Che fai con le stelle che vedi lontane? Con le tue mani così tormentate? Col mondo che a volte ti sembra sparire e non ti permette di ripartire. Rimetti in campo la tua fantasia, credi a un progetto da buttare via. Rimetti insieme la tua dignità e prova a cercare la felicità. Na na na. Adesso che fai quando vedi un tramonto, quando le stelle ti vengono incontro, quando la luna ti svela segreti, quando i tuoi sogni si fanno concreti. Prova a riprendere il tuo cammino, bella ragazza dal cuore lontano, attaccati forte alla mia mano per intravedere un futuro vicino. Rimetti in campo la tua fantasia, credi un progetto da buttare via. Rimetti insieme la tua dignità e prova a cercare la felicità. Na na na na. Adesso che fai tra la pioggia e il sole? Adesso che fai quando senti un dolore? Adesso che fai quando passa l'amore? Adesso che fai quando non trovi parole? Rimetti insieme la tua dignità e prova a cercare la felicità. Na na na na na na. Na na na na na na na na na na. Rimetti in campo la tua fantasia, credi a un progetto da buttare via. Rimetti insieme la tua dignità, prova a cercare la felicità. Na, na, na, na.